scagli la prima pietra. E scagli la prima pietra a chi tra gli affezionati ascoltatori della caccia giovedì scorso non si è lasciato sfiorare dalla speranza, da una speranzella vaga, segreta e accuratamente inespressa che il buon Carlo Azeglio Ciampi nonostante tutto non ce la facesse, che al primo scrutinio non ottenesse quella valanga di voti che l'accordo tra Apollo e l'Ulivo, ammesso che questi due strani termini abbiano ancora un senso, e sulla carta gli assegnava. Una speranza in fondo tutt'altro che peregrina, perché a spoglio effettuato si è visto che il neopresidente dei 200 e passavoti di agio sul quorum che vi si accreditavano ne ha raccolto soltanto 33. E tutti sappiamo che se non fosse passato al primo scrutinio ben difficilmente sarebbe arrivato alla meta. E una speranza quindi di cui forse ci saremmo rammaricati per primi ove si fosse realizzata, ma una speranza, inutile negarlo, che ci ha segretamente sfiorati tutti. E non perché a qualcuno di noi Dione Scampi avesse motivo di favorire i disegni di Franco Marini o perché a Ciampi preferissimo vedere insediato sul collo uno dei suoi improbabili e un po' patetici concorrenti, nessuno di noi s'azzarderebbe a negare i meriti dell'economista insigne, dell'irriducibile laico, dell'antifascista della prima ora. Seppure preferiremmo un economista che oltre che della solidità della moneta si occupasse ogni tanto della sua distribuzione e un laico che non avesse fatto una così strepitosa carriera pubblica ai tempi del potere democristiano e un antifascista che non dovesse dipendere per essere eletto dai voti determinanti di Alleanza Nazionale, anche se preferiremmo tutto ciò, sappiamo che nella vita non si può avere tutto. È da tre giorni che tutti ci assicurano che il Carlo Azeglio è il migliore dei presidenti possibili, giudizio su cui convergono, oltre che partiti e giornali, i vescovi, il Grande Oriente, il Comitato dei Dieci Nobel e il Pescivendolo di Santa Severa, e non intendiamo certo mettere in discussione tanta unanimità. Tutti avranno sicuramente i loro buoni motivi. Eppure, ammettiamolo, c'è qualcosa che ancora non ci convince. Forse il sospetto, il vago, anche questo, è il vago sospetto che il Presidente della Repubblica, ancorché rappresenti l'unità nazionale, come recita la Costituzione all'articolo 87, non per questo debba essere espresso all'unanimità, o quasi. Dell'unanimità in politica è sempre saggio diffidare e la funzione del Presidente, nonostante l'altezza della sua posizione, resta pur sempre politica. Quando i nodi vengono al pettine deve schierarsi anche lui. E visto che il Capo dello Stato, come qualsiasi organo elettivo, deve comunque rispondere al suo elettorato, l'idea di un Presidente tenuto ad esprimere contemporaneamente le ragioni della destra e quelle della sinistra, impossibilitato a formulare una scelta a rischio di scontentare una parte che a lui comunque si riferisce, chissà perché non riesce a tranquillizzarci. Sì, d'accordo, ci ribattono, sì, certo, tutto questo è vero in teoria, ma ahimè oggi c'è la guerra. E con una guerra in corso non potevamo certo permettere lo spettacolo di un Parlamento diviso, spaccato in due, incapace di eleggere un Presidente della Repubblica. Il voto di giovedì ha confermato l'unità e l'impegno con cui il Paese affronta questo momento drammatico. Ed ecco, e forse è proprio per questo a pensarci bene che non ci siamo, e non solo perché quanto più grave il problema all'ordine del giorno, tanto più auspicabile che su quel problema ci si divida, che ciascuno dica la sua e la dica senza mezzi termini. Ma perché sulla guerra il nuovo Presidente della Repubblica è stato praticamente l'unico uomo politico di un certo peso e sicuramente l'unico candidato all'alta carica che non ha detto niente. Non ha detto una singola solitaria parola. Non ha espresso una speranza di pace, e vabbè, non era tenuto a farlo, ma non si è neanche schierato con quanti si sono assunti la responsabilità di attaccare. E lui ha taciuto. Sicuramente ci chiarirà quanto prima il suo illuminato parere, probabilmente in occasione del discorso di insediamento previsto martedì prossimo, ma dire quel che si pensa dopo aver portato a casa il risultato a noi sembra un po' troppo facile. L'argomento non è uno di quelli su cui si possa invocare la necessità del riserbo e quando è fin troppo evidente che a parlare si scontenterebbe comunque qualcuno che controlla dei voti, il riserbo, ahimè, rischia di sfumare nell'opportunismo, che non è esattamente la dote che si dovrebbe auspicare in un Presidente della Repubblica. Posti. postilla. Non sono stati in moltissimi osservare che da qualche anno a questa parte ogni elezione alla presidenza della Repubblica ha assunto un carattere, come dire, altamente aleatorio. È dal 1978 che i presidenti vengono scelti soprattutto per contrasto col loro immediato predecessore, e poi non contrastano affatto. Pertini fu eletto contro tutti i pronostici perché si aveva disperatamente bisogno di qualcuno che incarnasse un tipo politico opposto a quello del notabile democristiano in stile Leone. Cossiga ascese al Colle perché i grandi elettori, pur senza dichiararlo, cercavano qualcuno più rispettoso di Pertini delle ritualità politiche di un sistema parlamentare. Scalfaro fu selezionato in nome di una sua supposta riluttanza a quelle incontrollabili esternazioni e imprevedibili iniziative che avevano caratterizzato il settennato di Cossiga. E tutti sappiamo che se con Pertini la scommessa pagò anche troppo, con gli altri due fu un tonfo clamoroso, e Cossiga non fece altro che portare il pertinismo alle sue ovvie conseguenze, e Scalfaro cominciò dove Cossiga si era fermato. Anche Ciampi, mi sembra di capire, deve la sua fortuna al fatto che lo si suppone orientato in senso diverso da quello di Scalfaro, in un senso meno centrista, meno parlamentarista, meno propenso in buona sostanza ai vari modelli di ribaltone, più deciso ad attenersi alle leggi non scritte del bipolarismo. Vista l'esperienza del passato, a chi ha ragionato in tal modo non saprei consigliare altro che tenere le dita saldamente incrociate.